get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ed eccoci ancora con voi, siamo Caterina e Rosina, benvenute e ben ritrovate. Questa è la nostra 48esima trasmissione. Oggi abbiamo preparato per voi una scaletta della trasmissione a nostro giudizio molto interessante, ma non voglio anticiparvi nulla, in modo che ognuna di voi possa assaporarla fino in fondo. Direi di cominciare subito leggendovi un breve racconto di Kathleen E. Morrison, che abbiamo trovato sulla bollettina del CLI del gennaio 1998. Kathleen è di Brooklyn, New York, e si definisce una lesbica militante total femme e una PNA, cioè una principessa nera americana. È buddista, del segno zodiacale della bilancia, con ascendente gemelli. Questo racconto è tratto dalla raccolta Speaking in Whispers, edito a Chicago nel 1996. Il titolo è Inverno. Le tue valigie erano pronte sulla porta, ma l'aeroporto era chiuso. Avevamo ancora una notte, per fortuna. Il mondo era silenzioso, avvolto da una soffice coperta di neve che cadeva incessantemente. Si poggiava pura, pulita, sui neri rami degli alberi fuori dalla mia finestra. Abbiamo acceso le candele. I loro circoli di luce si riflettevano sui pannelli di vetro, proiettando un alone dorato sulle due donne, l'una tra le braccia dell'altra. Ero felice. Ero triste. Tu vivi tanto lontana da me, in un altro mondo. Quando sei qui, usciamo dal tempo e dallo spazio. Ci muoviamo in un universo che è solo nostro. Il sole, la luna e tutto ciò che c'è al di sotto sono stati creati per noi, per nutrire i nostri spiriti. Mi volto verso di te. I tuoi occhi liquidi, tondi, incorniciata da ciglia lunghe e spesse, sono solenni, ma pieni d'amore. Sai anche tu quanto poco tempo abbiamo. La tua mano quadrata e larga, la mano di un artista, si solleva per fermare una lacrima prima che mi scenda sul viso. Vieni e mi porti in salotto. Siamo inginocchiate tanto vicine che sento il tuo respiro sulla guancia. Io te quiero, mi sussurri nell'orecchio, toccandomi il viso con le tue labbra morbide e calde. Io ti stringo forte, domandandomi se potrò mai catturare questo attimo sulla carta. Vorrei una penna, un pensiero fugace, mentre tu mi riporti in me con una carezza. Mi prendi un seno e chini la tua testa su di esso. A volte, in piena notte, riesco ancora a sentire la sensazione della tua lingua, dei tuoi denti che tirano, marchiandomi la pelle. No, no, grido. Il mio cuore ti ha già detto addio. Non posso permettermi di avere anche questo momento. Mi ha fatto così male la prima volta. Ci alziamo e andiamo in cucina a guardare la neve fuori. Ci sono luci nelle finestre del cortile, vite che vengono vissute. Non ci sono promesse per il domani. Ci è dato solo l'oggi. Solo l'oggi. Mi volto verso di te. Sì, questo è il nostro tempo. Il nostro momento, mano nella mano, andiamo in camera da letto. Questo non ho bisogno di scriverlo, il mio cuore ricorderà. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. È andato da poco in onda sulla televisione italiana il film Due ragazze innamorate della giovane regista australiana Maria Maggenti. Il film è già vecchio di qualche anno, ma ve ne vogliamo comunque parlare perché si tratta di una opera piuttosto graziosa, senza particolari ricercatezze. Un prodotto sicuramente indirizzato alle giovanissime, che ha il pregio di toccare molti temi, da quello più generale dell'adolescenza a quello specifico dell'amore lesbico, attraversando le problematiche del razzismo, delle famiglie monoparentali, delle differenze di classe. Le protagoniste sono due giovani adolescenti, Randy ed Ivy, molto diverse tra loro. La prima, Randy, bianca, butch, proletaria, figlia e nipote di proletarie, svogliata e molto grunge. La seconda, Ivy, nera, femme, borghese, figlia di una importante componente della Conferenza Mondiale dei Paesi in via di sviluppo, studentessa diligente e dal portamento molto elegante. Randy è una ragazzina che la s'allunga su quello che vuole, sul modo migliore per ottenerlo. Vive in casa con una zia lesbica e la compagna di questa. Coltiva una relazione clandestina con una donna sposata e mentre termina gli studi nel locale liceo lavora presso una pompa di benzina. E proprio qui Randy incontra Ivy per la prima volta ed è subito quello che normalmente si dice un amore a prima vista, almeno da parte sua. Comincia così il balletto del corteggiamento da parte di Randy e Ivy, per niente scandalizzata dal modo di vivere dell'altra, le si avvicina, dapprima con l'interesse per un'amicizia e poi a poco se ne innamora. Ivy verrà però duramente punita per questo suo essere uscita dagli schemi. Infatti il suo rapporto con Randy le costerà l'amicizia delle sue borghesi e fatue compagne di scuola, che la lasceranno sola e senza alcun appoggio. D'altra parte anche per Randy la situazione non è delle migliori. Considerato il suo scarso rendimento scolastico, con ogni probabilità non riuscirà a diplomarsi entro l'anno e incapperà così nelle ire funeste della sua irascibile zia. Il film ci regala un finale teatrale, quasi picaresco, dai toni agrodolci. Dopo la prima notte d'amore trascorsa in casa di Ivy e più precisamente nel letto di sua madre, le due vengono da lei sorprese e si danno ad una rocambolesca fuga, inseguite non solo dalla madre, ma anche dalla zia di Randy e dalle sue amiche, dal marito della prima amante di Randy, dalle amiche di Ivy e da altra varia umanità. Randy ed Ivy, rinchiuse in un motel, dapprima contrattano per la propria libertà. Infine, accerchiate, escono allo scoperto ed affrontano ognuna consapevole della propria forza e di quella dell'altra il destino che le attende. Due ragazze innamorate è una favola divertente e amara al tempo stesso, che in certi momenti ci fa sorridere di tenerezza e ci lancia un messaggio positivo, dicendoci non che l'amore salva tutte le cose, ma che la consapevolezza di se stesse qualche volta lo fa. Randy ed Ivy, uscendo allo scoperto, non si trasformano in un facile bersaglio nella confusione di voci sullo sfondo, ma si stagliano su quello stesso sfondo, spiccando soprattutto il resto, e quel coprirsi a vicenda le orecchie per non sentire il brusio incessante nella scena finale simboleggia non già un allontanamento ed una fuga dal mondo, ma un linguaggio nuovo, una nuova forma di comunicazione, una reinterpretazione di quello stesso mondo che passa attraverso il rappioparsi di sé. dopo il pezzo in lingua francese che avete ascoltato poco fa sulle Ciel de Paris, adesso avete ascoltato le Kick la Luna con Ready for Love, tratto dall'album Lucina Lacht. Gli appuntamenti. Per gli appuntamenti di oggi volevamo segnalarvi come prima cosa di nuovo la vacanza di Capodanno in Puglia, 30 dicembre 99, 2 gennaio 2000, ad Ostuni, Villanova, Brindisi, grande cenone e festa di Capodanno. La masseria può ospitare 100 donne in stanze da 5-6 letti con bagno e riscaldamento autonomo. Non è necessario portare lenzuola, coperte e asciugamani. E questa iniziativa è stata organizzata dalle Desiderande di Bari. Per informazioni e prenotazioni, entro il 15 dicembre, telefonare allo 0368 3777 784 oppure scrivere alle desiderandae@hotmail.com. Alla Filanda di Acquiterme, casa di vacanze per donne, da lunedì 27 dicembre 99 al 2 gennaio 2000, festa di Capodanno con grande cenone, musica live e DJ, gite guidate di sci di fondo ed escursionismo, sala di musica con strumenti a disposizione, creazione di oggetti sonori, gite al mare nei dintorni, proiezioni serali di film di registe donne, sauna indiana, ping pong, shiatsu e biciclette. Per prenotare 0144 323956, il telefono fax per il cenone. Il termine è il 27 dicembre. Il 26 dicembre 1999 e a seguire ogni ultima domenica del mese, festa solo donne dei Venus Rising con performance e la mitica DJ Paola D al Goa di Roma, via Libetta 13, vicino ai Mercati Generali. L'Associazione Culturale Lesbica Visibilia organizza tutti i secondi e quarti sabati del mese al Millennium via Rivareno 77A Bologna, feste disco con le DJ Federica Baby Doll, Valli e Adarei. Prossimi appuntamenti sono il 18 dicembre 1999, il 15 e il 29 gennaio 2000. Inoltre tutti i sabati al Millennium dalle 21, osteria, sala, internet, disco pub con video non stop. Per informazioni di Visibilia telefonare allo 051 26 35 92 il mercoledì dalle 18 alle 20 oppure il sito internet www.duecomune.bologna.it/bologna/asslv. Una anziana signora guarda la sua vita e quella delle sue amiche, 60 anni di vita, con stile, lesbica, le scelte e le relative conseguenze, da butch femme a transgender, da velate a visibili. Con humor e musica, le Lesbian Unlimited, scusate il mio inglese, propongono questo nuovo spettacolo per il Lesbos Tour 2000, che viaggerà col bus appunto, dal 19 maggio al 18 giugno 2000 per l'Europa. Dopo il debutto in Olanda saranno impegnate dall'1 al 4 giugno a Zurigo in occasione degli Eurogames. La settimana successiva verranno in Italia per poi concludere in Germania il loro tour. Chiunque fosse interessata a organizzare una tappa nella propria città può contattare, e questo è ancora più difficile perché non è neanche inglese, Gineke Herema, spero si dica così. Comunque il telefono fax è molto più semplice, ve lo do: 0031 50 31 37 75 0. La loro email è lesbiansunlimited@yahoo.com. Ed ora vi diamo anche un pochettino di notizie. Le Lesbacce Incolte di Bologna hanno curato la pubblicazione del libro di poesie di Anna Cuenca, Diurne Notturne. Si tratta di un testo sulla vita e sull'amore lesbico e della ricerca di nuovi linguaggi con cui raccontarsi all'altra, comunicando il desiderio, la propria esistenza e il proprio pensiero sul mondo, da un'ottica nuova, fuori dai presupposti dominanti della oppressione e della non rappresentazione. Le Lesbacce Incolte si dicono convinte che la poesia lesbica sia una nuova forma di comunicazione diversa da quella eterosessista in uso. Con questo testo le Lesbacce Incolte aprono una nuova collana dedicata alla scrittura lesbica di oggi e, soprattutto, alle scrittrici lesbiche inedite. Il testo Diurne Notturne sarà presentato a gennaio in alcune città italiane ed è già disponibile nelle librerie delle donne, oppure può essere richiesto alle Lesbacce Incolte, casella postale 4059 presso l'ufficio postale 40132 Borgo Panigale Bologna. La loro email è lesbacceincolte@yahoo.com. Secondo una ricerca svolta in Nuova Zelanda sull'orientamento sessuale delle lesbiche, l'81% ha dichiarato di essere nate così, anche se l'80% di queste hanno avuto relazioni eterosessuali e il 19% per scelta. Il 65% delle nate così dichiara poi che non potrebbero cambiare il proprio orientamento, mentre tutte quelle del per scelta dicono che potrebbero ma non vogliono. La nuova Costituzione approvata in Svizzera interdice tutte le discriminazioni, comprese quelle contro gay e lesbiche, ed è la prima in Europa. A proteggere esplicitamente dalle discriminazioni per l'orientamento sessuale sono solo altri 4 paesi: Sudafrica, Canada, Ecuador ed Isole Figi. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2000 la legge sulla convivenza legale, la legge che prevede l'applicazione per qualsiasi convivenza anche tra fratelli e o sorelle e che garantisce in caso di morte il diritto al subentro nel contratto di affitto. È per alcuni un primo passo verso il riconoscimento delle unioni civili, peraltro il loro definitivo affossamento, dato che non accorda nessun riconoscimento in fatto di successioni, adozioni e assistenza sanitaria. si è svolta ad Oxford la terza conferenza sui rapporti fra polizia e comunità lesbica e gay in Gran Bretagna. Alla conferenza organizzata da National Advisory Group sono intervenuti alti gradi della polizia, rappresentanti del governo ed esponenti del movimento gay e lesbico che lavorano per un trattamento più equo e rapporti più aperti da parte della polizia, che consenta a gay e lesbiche di potersi rivolgere alle cosiddette forze dell'ordine quando sono vittime di abusi e violenze. Dopo la prima conferenza tenutasi nel 1995 a Manchester, questo appuntamento biennale viene considerato sempre più importante per i significativi passi fatti avanti nel rispetto delle persone omosessuali e nelle indagini sui casi di omicidio e attentati. È grazie a questo lavoro che le due ufficiali della polizia che hanno celebrato il loro matrimonio sono state festeggiate dai colleghi con il loro superiore che dichiarava: «La polizia deve essere lo specchio della comunità di cui è al servizio e noi auguriamo buona fortuna alle nostre colleghe». Mentre a mezzo stampa il rappresentante dell'Istituto della Famiglia dichiarava: «Il modo di vivere omosessuale è pericoloso, individualista e sterile. La polizia è istituita per proteggere la società, ma con questo passo la si mina senza ritorno». Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane, sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, nel martedì femminista autogestito. Se volete mettervi in contatto con noi qui in radio, vi ricordiamo il telefono 06 49 17 50. Se invece volete contattarci presso il Buon Pastore, il telefono è 68 64 201. Se volete ancora mettervi in contatto con noi per via telematica, vi diamo l'indirizzo internet clrbp@hotmail.com. Per la musica lesbica indipendente abbiamo scelto per voi il brano Sister Lover Mother Child di Life is Pink. Oh, like a raging tide. That's the power, yeah, of knowing. Sister, lover, mother, child. Sing, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah. Abbiamo già avuto occasione nella nostra trasmissione di parlare di mutilazioni sessuali. Oggi vi vogliamo leggere il testo di un documento che Lesbian Magazine ha pubblicato nello scorso novembre, e si tratta in pratica di un documento che viene sistematicamente diffuso in Francia fra le operatrici e gli operatori sanitari per promuovere le mutilazioni sessuali sulle bambine. Il documento è firmato dalla Lega Europea per la valorizzazione della circoncisione femminile. Abbiamo deciso di leggerlo integralmente, senza commentarlo, perché come capirete è un testo che si commenta da solo, un testo oltremodo delirante. Per circoncisione femminile si intendono una serie di interventi praticati appunto sulle bambine e sulle donne, che vanno dalla escissione del prepuzio alla escissione della clitoride, all'allungamento per trazione della clitoride stessa, al raschiamento dell'orifizio vaginale, alla introduzione di sostanze corrosive o di piante nella vagina per provocare delle emorragie o per chiudere o restringere la vagina stessa. Vi leggiamo il testo. Ovunque in Europa, come negli Stati Uniti, un numero crescente di genitori si rivolgono al corpo medico per far praticare sulle proprie figlie un piccolo intervento chirurgico di grande interesse sanitario, che si ricollega alle pratiche ancestrali, abituali, religiose di parecchi popoli. Questo intervento è conosciuto sotto il nome di circoncisione. Se la circoncisione maschile non turba gli spiriti, non è affatto lo stesso per la circoncisione femminile, pratica ingiustamente inficiata da pregiudizi culturali. Nel sancire l'uguaglianza fra uomo e donna nella sua legislazione, la comunità europea è arrivata a far gioire la donna delle gioie e delizie della circoncisione inflitta all'uomo. Recenti casi giudiziari dimostrano che non sarà possibile ancora per molto giustificare la circoncisione maschile mentre si condanna la circoncisione femminile. Tutte e due risalgono infatti alle stesse considerazioni etiche, mediche, sociali e religiose, pena il rischio di coltivare aberrazioni legislative pregiudizievoli alla stessa sopravvivenza della democrazia. Riguardo alla circoncisione femminile, è una piccola operazione chirurgica priva di rischi, indolore e senza versamento di sangue. Pertanto viene effettuata senza anestesia. Questa operazione consiste principalmente nella rimozione del prepuzio della clitoride, ma anche delle pelli abusivamente designate come piccole labbra, e in via accessoria in una consistente riduzione del volume delle grandi labbra. Contrariamente alla circoncisione maschile, non comporta alcun tipo di complicazione. Al di là della circoncisione della clitoride, la circoncisione della vulva elimina quasi completamente i problemi ginecologici. È efficace per combattere la sifilide, l'AIDS, il cancro della vulva, della clitoride, della vagina e dell'utero, le malattie mentali, le allucinazioni e le altre malattie comportamentali. Per chi si fosse messa in contatto in questo momento con noi, vi ricordiamo che stiamo leggendo il documento della Lega Europea per la valorizzazione della circoncisione femminile. Proseguiamo nella lettura. Ambiente caldo e umido, la sfera genitale femminile è estremamente adatta alla proliferazione di batteri. Fermando la proliferazione di batteri e quindi ogni rischio di infezioni, l'escissione previene nella donna qualsiasi rischio di sterilità d'origine infettiva. Inoltre impedisce il sopraggiungere del cancro al pene nell'uomo. Allo stato naturale la vulva soffoca la clitoride, impedendo in tal modo una buona circolazione sanguigna. Mantenendo libero il perineo, l'escissione della vulva permette alla clitoride di essere sempre meglio irrigata, decuplicando il piacere sessuale della donna. La ragazza è tendenzialmente soggetta a pruriti continui, a continue infiammazioni della vulva, quando non si presentano delle infezioni. L'escissione della vulva purifica la sfera urinaria, eliminando tutti questi problemi. Alla nascita, le pelli vulvari sono spesso attaccate e questo comporta infiammazioni urinarie. La circoncisione della vulva è un eccellente rimedio per questo problema. Ugualmente, l'imene è talvolta totalmente otturato ed impedisce in questo modo ogni rapporto sessuale, perciò è necessaria una escissione terapeutica dell'imene. L'escissione dell'imene è particolarmente raccomandata fin dall'età prepuberale, in modo da evitare insalubrità vaginali dovute alle mestruazioni. Perciò si consiglia alle madri di dilatare la vagina delle proprie figlie introducendovi energicamente due dita, in modo da impedire che da adulte abbiano problemi sessuali. Accade comunemente che dello smegma si depositi fra il glande della clitoride e il cappuccio. Questa sostanza forma dei sali cancerogeni che provocano il cancro della clitoride. La circoncisione del prepuzio clitorideo previene dunque completamente questo rischio. Intervento più discusso rispetto alla circoncisione del prepuzio clitorideo, l'asportazione neonatale della clitoride permette alla bambina di concentrare la propria affettività sulla vagina e di avere una vita di coppia ben riuscita. Le ragazze sulle quali non è stata praticata l'asportazione della clitoride soffrono di una affettività contraddittoria che le rende capricciose, indecise, esitanti fra la soddisfazione clitoridea e vaginale. E questo comporta un effetto gravemente negativo sulle coppie e sulla vita sociale. Ecco che certamente sarete convinti della fondatezza della circoncisione femminile. Ricordate che è possibile praticare la circoncisione femminile a qualsiasi età. Terminiamo questa campagna informativa con il seguente appello. In nome di Dio, per la loro bellezza, per il loro benessere, per la loro salute, circoncidete le bambine, circoncidete le donne. Come avete sentito, i toni di questo documento sono assolutamente deliranti. Intanto vi ricordiamo che messe fuori legge, anche se ancora diffuse, in Mali, Burkina Faso e Senegal, le mutilazioni sessuali colpiscono 9 bambine su 10 in Egitto, Eritrea, Mali e Sudan, 5 su 10 in Centro Africa e Costa d'Avorio, con misura variabile in Togo, Tanzania, Mozambico, Mauritania, Libia, Kenya, Oman, Emirati Arabi, e la popolazione musulmana di Indonesia e Malesia, fino a fare un totale stimato in 130 milioni di bambini e donne, con una previsione di 2 milioni di nuovi interventi all'anno. L'immigrazione dall'Africa ha portato in Francia da molti anni le mutilazioni genitali femminili, praticate in nome della tradizione, ma lo scontro con tradizioni diverse ha indotto un aggiornamento delle ragioni, medico, igieniche e psicologiche, per le quali le bambine avrebbero indubbi vantaggi dalle mutilazioni. Questo documento, terribile e delirante, testimonia della necessità di una campagna di continua denuncia, dopo che con grande determinazione le donne africane hanno detto no alle tradizioni, dichiarandosi infedeli ad una usanza per il diritto all'integrità del corpo. Thank you.